sta in qualche posto prima o poi. Fare furbi sempre nella gara col destino, essere per il momento, essere umano. Chiederei a qualche stella che ci pensi lei, splendere di luce propria e non saperlo mai. Piangere e uccidere ma nel vestito buono, essere decisamente, essere umano. Qui funziona così, un giorno chiodo, un giorno martello, un giorno decollo. Qui va avanti così, un giorno staro, un giorno zimbello, nel giorno più bello. Spingere lo sguardo dove non si vede più, chiedersi fin troppe volte come va lassù. Fingere che crescere non sia un processo sano, essere per l'occasione, essere umano. Spendere con troppa noia il tempo che non hai, credere davvero di sapere cosa vuoi. Prendere l'antidoto per prendere il veleno, essere sentitamente, essere umano. Funziona così, un giorno chiodo, un giorno martello, un giorno decollo. Qui va avanti così, un giorno roccia, un giorno cristallo, un giorno tracollo. E qui succede così, un giorno santo, un giorno flagello, un giorno tranquillo. C'è uno spiffero. Fare tutto il sangue che si può, scendere dal letto con un altro perché no, vivere spavento ed attrazione per il tuono, essere o non essere ma essere umano. Qui procede così, un giorno chiodo.